Ciao a tutti e tutti, perdonatemi se a tratti potrò sembrare poco lucida perché ho un'influenza, diciamo, che ha deciso di invadermi, e cercherò di esprimere quello che ad oggi, no, è il frutto di una riflessione collettiva, no, dell'Assemblea Romana Nord in Fas, che si ritrova ancora una volta ad interrogarsi su questioni di un'importanza, di una grande importanza, che sicuramente di quella percezione è che normalmente si sottovaluti, ok, non è l'importanza di tutto questo, ma anche forse non si è compresa del tutto, no? In tutte le sue varie sfaccettature. E ci ritroviamo a parlare oggi di Smart City, vale a dire di una città intelligente, che secondo la sua definizione potrebbe sembrare diciamo una meraviglia del potenziale umano, in quanto indubbiamente, no, indica una città in cui è sostanzialmente dotata di un'intelligenza in cui tutte le tecnologie di informazione e di comunicazione vengono messe in qualche modo al servizio della città, dei suoi abitanti, e in nome della difesa di un bene comune, per l'ennesima volta a serio rischio per una situazione emergenziale, così come fu allora per il Covid, e ancora una volta che necessita della collaborazione, della resilienza e della adattività di tutti noi, perché il bene è comune, non ci sono più padroni e sfruttati, non ci sono più cattivi e buoni, cioè ci ritroviamo come allora la Pfizer, oggi magari l'ENI, che ci indica qual è il miglior comportamento, il buon comportamento per difendere questo caro, il nostro pianeta, per rendere questo mondo sostenibile realmente, e che comunque, diciamo, visto come elemento non modificabile, cioè il fatto della necessità della collaborazione di tutti alla difesa del bene comune. Questo bene comune che noi ci lascia un po' perplesso, perché, diciamo, veniamo un po' da un percorso di crescita collettiva, per cui ci siamo ritrovati durante la questione della gestione pandemica a interrogarci spesso su questo, in che modo, no, in nome della paura di morire, si può, diciamo, proporre, sperimentare, attuare dei sistemi di sorveglianza, di condizionamento degli spostamenti, di gestione delle attività di tutti, no? dei bisogni di tutti, in modo così stretto e condizionato, in difesa, no? In quel caso del nemico Covid. In che modo, no, questo può essere conveniente per tutti? Ecco, nella nostra riflessione, ieri come oggi, diciamo, semplice la risposta: non è affatto conveniente per tutti. È evidente che tutto questo è conveniente sempre agli stessi, vale a dire sempre a quelli che in qualche modo ridefiniscono gli equilibri per fare più profitto, per estrarre più ricchezza, per sfruttare sempre di più, diciamo, il lavoro e le energie di tutti noi. Questo che significa? Che poco un po' crediamo alla questione dell'umano in quanto tale. Noi siamo convinti che all'interno di questo, dietro di questo, ci siano specifici uomini, specifici classi, che comunque l'interesse sia sempre lo stesso e che sia diciamo, in qualche modo, una riorganizzazione. E quale miglior modo per attuare una riorganizzazione o anche un sistema, cercare un sistema di gestione permanente delle continue emergenze che ci troviamo a affrontare, non ultima, ne parleremo più avanti sicuramente, la guerra, questa tendenza continua alla guerra, che è tanto importante per definire equilibri economici e politici. Come fare? Ecco, allora diciamo che tendenzialmente noi ci dobbiamo immaginare un po' rilevando tutto ciò che è propaganda. Abbiamo imparato a farlo durante il Covid, a riconoscere la propaganda rispetto a quella che è la realtà, e invece di immaginarsi questa città intelligente come un sistema integrato di tecnologie che sicuramente migliorerà la nostra qualità della vita, proviamo a immaginarlo come realmente è, ovvero una costruzione di un sistema di infrastrutture tecnologiche che in qualche modo ridefiniscono i rapporti all'interno di uno spazio territoriale, di più spazi territoriali, e ridefiniscono diverse caratteristiche, centrato sul flusso di dati, utile a tutti. Facciamo, capiamoci, è utile all'economia, è utile al capitale, è utile allo Stato, è utile al sistema militare, è utile per il monitoraggio e il controllo dei comportamenti, per il condizionamento e per inserire meccanismi talmente pervasivi che entrano addirittura, no, a modificare qualunque abitudine, qualunque scelta di vita. Che significa questo? Immaginiamo che ne so, io ho un telefono in tasca, cammino per strada e a un certo punto c'è un sistema sensoriale, che può essere una telecamera, ma non solo, come c'è un'altra cosa, che in qualche modo entra in connessione con quel telefonino che ho io in tasca o con varie altre strutture, e si scambia le informazioni, e questo sistema avviene sulle larga scala per tutti quelli che in qualche modo portano con sé o hanno a disposizione degli oggetti in grado di mettersi in connessione con altri oggetti. Questo grazie, va detto, sarebbe possibile solo a una rete che è la rete del 5G, che permette questa connessione ad alta velocità di molti dati, ok? Che è sotto i nostri occhi, vediamo dappertutto, no? Diciamo, in questo momento è una costruzione di infrastruttura veramente, si sta andando molto da fare per questo. Effettivamente Roma è piena di cantieri riguardo a questo, e così vale per vari territori. Cosa succede? Succede che questo flusso di dati non è un flusso neutro, è chiaro che non è un flusso neutro, è un flusso che comunque si connette a varie cose e è in grado di profilare, perché di questo si tratta, diversi aspetti, quindi sono moltissime le funzioni. Ad esempio è possibile profilare, diciamo, un'abitudine di consumo, è possibile profilare nel dettaglio, diciamo, i movimenti all'interno dello spazio, e può essere fatto a livello individuale, può essere fatto a livello collettivo o di piccolo gruppo. È possibile mettere in connessione addirittura delle conversazioni avvenute magari su chat con comportamenti che magari io ho all'interno dello stesso territorio. Trento applica un modello di questo tipo. È possibile addirittura arrivare a predire comportamenti non conformi. Ora chiaramente dovremmo aprire un discorso sul concetto di conformità, ma lasciamo perdere. Significa che qualunque comportamento non ritenuto, no, idoneo a quella gestione di quell'emergenza, di quella situazione, sicuramente è identificabile. Sono identificabile, no, perché questa rete si accompagna a un sistema premiale, ok? L'abbiamo già visto sempre durante il Covid, no? A parte la sperimentazione della piattaforma di Green Pass, che di fatto ha funzionato egregiamente, purtroppo direi, e che comunque ha reso possibile la connessione di più dati, effettivamente è stato possibile attraverso una piattaforma senza praticamente nessun problema, limitare gli accessi o a servizi o a diritti o a spazi, addirittura al lavoro, voglio dire, no, di chi in quel momento attuava un comportamento non conforme. Allo stesso tempo questo avviene tramite tutte le app di accesso, voglio dire, ai servizi, come può essere, che ne so, la richiesta di assegni familiari, così come della tessera dell'ATAC, così come, no, per tutta un'altra serie di cose. Ci sono sempre più frequenti in Italia presenti carte del buon cittadino, dove indubbiamente si si lega l'accesso al servizio, all'accesso a un territorio a determinati requisiti, a determinati comportamenti. Quindi la domanda è sempre più evidente: a chi conviene questa smart city? Allora, oddio, detto così, no, sembra come se ci avessimo in mente una mondo a sé che va avanti e che è difficile, che riesce ad annientare addirittura l'uomo. E in questo momento gli studi stanno, diciamo, si concentrano anche su quello che è il passaggio dall'internet delle cose, che è appunto quello che stavamo dicendo, addirittura quello che è l'internet dei corpi, cioè vale a dire la connessione di un corpo a un computer. Ora capiamoci, non è che abbiamo niente contro la tecnologia, cioè appunto non è l'utilizzo della tecnologia. Il punto è chiaramente ed evidentemente a cosa serve tutto questo. Serve per migliorare la nostra qualità della vita? No. Serve per condizionare con i nostri comportamenti? Probabilmente sì. Serve a fare più profitto? Sì. E serve a fare guerre? Sì. Serve a condurre una profilazione in tempo di guerra e in tempo di pace? Sì. Esiste realmente un tempo di pace? Non lo so. Nel senso che effettivamente in questo momento noi, diciamo, veniamo giorno dopo giorno addestrati a rispondere adeguatamente alle diverse situazioni. Come? Creando dei meccanismi ovviamente di dipendenza e di ricatto. Ripeto, ritorniamo al Covid, ovviamente chi non ha accettato l'obbligo vaccinale o il Green Pass ovviamente è stato sospeso sul lavoro o magari è stato comunque additato a livello sociale come criminale di guerra e varie, così come oggi la persona che apparentemente non si preoccupa o sembra non preoccuparsi di salvare il pianeta viene additato come l'uomo degli sprechi e la persona non gradita a livello civile, così come chi vuole in qualche modo ha l'intenzione di reagire a tutto questo indubbiamente sicuramente la vita è un po' difficile. Riduzione. Una vita un po' difficile, che significa che a seconda dei vari livelli quella famosa forbice che tutti conosciamo si allarga, si apre e si chiude, no? E in questo momento non sembra tollerata nessuna forma di reazione, vengono sicuramente repressi anche tentativi, diciamo, che fino a poco tempo fa, anche proteste che fino a poco tempo fa diciamo non sarebbero state oggetto di repressione, vengono sicuramente e platealmente anche, diciamo, in qualche modo represse. Il messaggio sembra molto chiaro per tutti noi. Cosa ci dice però anche tutto questo? Ci dice una cosa molto importante. Ora in Italia, ma in tutto il mondo in realtà, assistiamo a, diciamo, dei territori principalmente piccoli, paesi, cittadine, che sperimentano sul campo uno o due di questi aspetti. Parliamo di questioni importanti, parliamo del riconoscimento facciale, parliamo dei sistemi di riconoscimento video e audio, dell'unione del cosiddetto portafoglio digitale, parliamo appunto la connessione degli spostamenti urbani, di ticket di accesso a seconda delle necessità. Non ultima in questo è la storia di Venezia, in cui comunque vuoi non vuoi, sia che tu debba pagare sia che tu non debba pagare, sei comunque soggetto a schedatura. E diciamo da un po' a Milano ad esempio nel centro storico si paga, okay, c'è un numero di accessi o un costo per poter entrare, è come se la città non fosse più una città, è come se lo spazio non fosse più uno spazio. È molto importante perché in realtà forse l'unico aspetto realmente imprevedibile siamo proprio noi. Cioè, di fatto il comportamento umano rimane un problema, rimane perché è imprevedibile, perché in qualche modo è fatto di bisogni, sì, di ricatti, è fatto di quello che ti pare, ma è fatto anche di soggettività e non necessariamente tutti accettano. Ecco, questo penso che su questo abbiamo riflettuto, è evidente che non possano essere tollerate divergenze. perché quello che c'è da fare, che non c'è chiaro affatto al momento, cioè non è che uno sa già chiaro, sa già cosa sta accadendo a livello di equilibri tra capitali, perché di questo parliamo, mondiale, sappiamo però che sicuramente noi non ci possiamo entrare, cioè diciamo che talmente un essere libero sostanzialmente di fare ciò che vogliono, però non è che questo mondo è un mondo brutto, non è un mondo brutto, è un mondo dove addirittura arriverai a sentire tuo solo quel territorio, solo quella parte di territorio. Perché? Perché sì, troverai tutto, dai, la vediamo nella definizione della città dei 15 minuti, tutto quello di cui tu hai bisogno lo sappiamo e lo troverai a portata di mano, perché tu sicuramente avrai una vita comoda, avrai tutto a tua disposizione, potrai sviluppare le tue relazioni sempre all'interno di un determinato contesto, quando servirà a me, ti sposterai, certo, è chiaro, che dobbiamo fare, se mi serve ti sposti, ma sicuramente la tua vita potrà essere anche felice all'interno di un territorio ristretto. Perché questo territorio ristretto, poi in fondo, questo territorio ristretto perché ovviamente è più facilmente gestibile, questo è chiaro. Se funziona, no? Se funzionano tutti i vari modelli che stanno sperimentando in giro, poi lui ce ne parlerà di più, allora per unirmi all'interno di un territorio grande ovviamente c'è bisogno che il territorio non sia più così grande, perché è difficile gestire un territorio urbano. La Smart City diventa città dei 15 minuti all'interno di un contesto urbano, perché è chiaro, la gestione di quartiere è diversa dalla gestione cittadina, è più difficile controllare un ampio territorio rispetto a un territorio più stretto. Ora siamo qui perché sicuramente è ora di iniziare a affrontare questa questione con il peso che ha, ha un peso sostanziale, perché quando l'infrastruttura che stanno costruendo in questo momento sarà pronta, quando questa infrastruttura sarà pronta, lo spazio di movimento sarà estremamente ridotto, e quindi forse è il caso che ci cominciamo ad occupare di come intervenire in questa situazione quando ancora il nostro spazio di movimento non è così ridotto. Non riteniamo che le cose siano decise, non riteniamo che i giochi siano fatti, non riteniamo che non ci sia spazio, riteniamo di dover tirare fuori e ribadire dei concetti economici dietro a questo. Sappiamo che questo principalmente serve, okay, a garantire, a far aumentare, a riorganizzare un sistema produttivo, un sistema di profitto, e sappiamo allo stesso tempo che siamo parte della stessa medaglia. Quello che accade qui è esattamente quello che sta accadendo per esempio in questo momento in Palestina, dove vengono attualmente sperimentate delle tecnologie frutto di una ricerca condivisa da parte militare e da parte civile, okay, che mette insieme esattamente gli strumenti che diventano strumenti appunto per la gestione di qualsiasi emergenza. E siccome a quanto pare questa emergenza che permette di giustificare qualunque forzatura, perché ancora diciamo ritenesse che esista, che diciamo sia tra di noi un sistema cosiddetto diciamo aperto, democratico, eccetera eccetera, allora in realtà questa forzatura ormai è diventata perenne. Quindi forse iniziamo a capire realmente di cosa si tratta, perché noi arriviamo sempre un po' dopo, e questa cosa magari forse è il caso che la affrontiamo. Sappiamo che in giro per l'Italia ci sono diversissime realtà che stanno affrontando questo, anche di ispirazione differente. Sappiamo che abbiamo trovato una certa resistenza da parte del mondo da cui noi magari ci saremmo aspettati più risposta, l'abbiamo imparato a gestire questa cosa appunto durante la gestione della pandemia, fino ad arrivare alla consapevolezza che non si può andare avanti senza affrontare questa situazione che sicuramente diciamo condiziona tutto e tutti, e ovviamente principalmente chi è più ricattato ed è soggetto a sfruttamento. Quindi ovviamente le classi dal nostro punto di vista esistono ancora, e chiaramente oltre ad esistere, diciamo, fanno sicuramente quello che gli garantisce più profitto dal punto di vista della cartella borghese. Siamo noi il problema, siamo noi che non riusciamo a reagire a questo, quindi cominciamo a porci noi questa domanda, cioè come tiriamo fuori qualcosa per reagire a tutto questo. E un approfondimento doveroso, dov'è? Non so. Ecco, un approfondimento doveroso. È ovviamente più legato a quello che sta succedendo a livello militare attualmente in Palestina, e di questo ci parla Mattia. Sì, sei messo. No. Sì, come vi rubo giusto due minuti per presentare, abbiamo pensato di spezzare i nostri interventi con la proiezione di questo filmato su Hebron Smart City. Speriamo che poi dopo ulteriori interventi segua un dibattito. Ci sembrava appunto doveroso, sicuramente molto azzeccato, ma quasi doveroso collegare, parlando di Smart City, il tema delle Smart Cities, la terribile attualità è il genocidio in corso in Palestina, e quindi diciamo cercare di capire che ruolo hanno le smart cities e le tecnologie su cui esse si basano e che esse utilizzano nel genocidio in corso, e un po' per rendere chiaro, diciamo, vedendo l'utilizzo che se ne fa in uno stato che vive una situazione di guerra permanente e di apartheid da ben prima del 7 ottobre, per avere un'idea di quello che poi sicuramente ci aiuta a capire qual è in realtà il ruolo che queste tecnologie e queste trasformazioni avranno anche nelle nostre città. Ora dico due considerazioni sul fatto che questo video, anche se è illuminante, è precedente alla recrudescenza, diciamo, del 7 ottobre, quindi si occupa principalmente, diciamo, di alcune tecnologie, in particolare sperimentate ad Hebron, senza anticipare troppo quello che vedrete, ma si occupa soprattutto di raccolta dati e schedatura. Ci sono vari sistemi all'avanguardia, come sempre Israele è sempre all'avanguardia per quanto riguarda tutto ciò che è tecnologia e repressione, ovviamente, e quindi diciamo le voci narranti parleranno di questa cosa come un mantenimento dell'apartheid, senza prendere in considerazione ovviamente l'accelerazione che il genocidio sta avendo dopo il 7 ottobre. E per questo mi sembrava il caso di dire giusto due parole anche su questo, e in particolare su sul sistema, diciamo, che Israele adesso sta usando per scegliere gli obiettivi da bombardare e colpire a Gaza, e quindi in particolare sul sistema di intelligenza artificiale Apsora, tradotto Vangelo sarebbe, per cui anche se in un contesto diverso, quindi qui vedremo la città di Hebron, invece ovviamente i bombardamenti a cui mi riferisco sono sulla striscia di Gaza, ma i dati che vengono mostrati raccolti in vari modi in questo video, ma in realtà ci sono disparati modi ovviamente di raccogliere dati, e vengono sostanzialmente nel conflitto caricati e passati all'intelligenza artificiale, che in base a queste informazioni individua centinaia, migliaia di obiettivi da colpire, ritenuti obiettivi da colpire militari. Volevo fare una piccola considerazione sul fatto, magari anche scontata per molti di noi, sul fatto che sia alcune tecnologie che vengono mostrate in questo, che verranno mostrate in questo video, sia il funzionamento appunto per esempio di Apsura come intelligenza artificiale nel generare obiettivi da colpire, sono totalmente slegate dall'intervento umano in alcuni momenti. Per cui nel caso per esempio di Apsura, il personale militare addetto al controllo degli obiettivi fa un controllo minimo soltanto per vedere, risulta almeno così, soltanto per verificare il sesso del bersaglio, e poi praticamente nel giro di pochi secondi, perché ovviamente questo sistema è usato per velocizzare lo sterminio in corso, quindi chiaramente non fanno grandi verifiche, perché le verifiche le ha già fatte a monte l'intelligenza artificiale, e l'operatore militare in realtà non è in possesso di tutte le informazioni di cui è in possesso l'intelligenza artificiale sulla quale delibera quali obiettivi vanno colpiti. Nonostante questo, diciamo, nonostante l'esistenza di alcuni meccanismi totalmente automatizzati, volevo rimarcare questa cosa magari scontata del fatto che comunque il funzionamento di queste tecnologie, ora parlo dell'intelligenza artificiale solo per non anticipare quello che vedrete nel video, ma anche quelle tecnologie che si occupano di raccolta dei dati nei video e di schedatura eventualmente di fermo di polizia e militare, e, diciamo, hanno ovviamente dei parametri che sono inseriti dal fattore umano, dall'essere umano, e dipendono ovviamente dagli obiettivi politici che chi governa, e quindi l'umano, vuole perseguire in un determinato contesto. Per cui la stessa Apsura, faccio sempre questo esempio, ripeto, ma si potrebbe fare lo stesso esempio anche sulle tecnologie di sorveglianza, è stata parametrata diversamente a seconda delle operazioni militari in cui viene utilizzata. Per cui nelle ultime operazioni militari, scudo protettivo, guardiani del muro eccetera, aveva dei parametri diversi da quelli che ho adesso in Gaza, perché gli obiettivi erano diversi, chiaramente adesso i bombardamenti sono molto più indiscriminati, e quindi tra i vari parametri mi sembra significativo quello per esempio delle vittime collaterali, così chiamate, cioè le vittime civili che si possono tollerare in un bombardamento riservato a un sospetto militante della resistenza palestinese e in particolare di Hamas. Quindi diciamo il nemico che si serve di queste tecnologie è sempre umano, ed è bene ricordarlo, che persegue gli obiettivi politici ben determinati e non generati da una macchina, insomma. E va bene, quindi concludo dicendo che spero che dal dibattito e dal video anche proiettato renda evidente, diciamo, il vero obiettivo delle smart city e delle tecnologie che usano, e che anche se ci vengono vendute come strumenti per la nostra sicurezza e salvaguardia, in realtà l'unica cosa che prevengono è le rivolte, le rivoluzioni, la resistenza di qualunque forma. Quindi non sono pensate per prevenire i crimini e per proteggerci, diciamo, questo mi sembra abbastanza scontato. E quindi in particolare in questo, adesso passiamo dalla guerra permanente in Palestina alla pace apparente ma sempre più mobilitata verso la guerra che stiamo vivendo qui, chiaramente saranno utilizzate per impedire qualsiasi tipo di mobilitazione contro la terza guerra mondiale che ci stanno, oltre che a tutte le lotte tradizionali che possiamo immaginare, ma sicuramente a quella dirimente contro la guerra indiscriminata che ci stanno preparando, diciamo, intorno. E contemporaneamente queste tecnologie, e chiudo, scusate, sono sempre dual use, quindi sia per quanto riguarda la raccolta dei dati ma anche per quanto riguarda il trasporto, e poi spero che dopo parleremo anche del trasporto, insomma, di questa città eccetera, avremo modo di approfondirlo con i prossimi interventi, ma anche il trasporto in un'Europa sempre più mobilitata per la guerra deve essere funzionale anche alla mobilitazione di truppe, mezzi militari, carburanti e risorse per la guerra. E quindi tutte queste infrastrutture vengono pensate sia per impedire che alla guerra ci si ribelli, sia per facilitare, diciamo, la guerra. E ho un po' divagato e concludo così il mio intervento lasciando spazio al video.